il giorno un po' speciale, il compleanno dell'amore. Tanto il vino corro a casa, questa sarà una calda serata, che ti importa di cosa pensano. Accendo il microonde per fare la qualcosa di grande, basta il pezzo, pollo al forno e sentire un bel contorno. C'è qualcosa che non va, la pasta è cotta che sembra merda, il pollo nel forno è carbonizzato. Guarda, non sono felice se tu sei qui con me. Nessuno capisce il nostro amore, guarda lì.